cuore ho bandito te, resto appeso allo stupore, chiedo e don perché. Il figlio che ti darò, il figlio che ti do, il figlio che ti devo, il figlio che non ho. Il figlio che ti darò, il figlio che ti do, il figlio che ti devo, il figlio che farò. Il figlio che ti darò, lo tengo accanto a me. Il figlio che ti darò, lo vedi se è un perché. Il figlio che ti darò, non vedi sta con me. Il figlio che ti darò, non resta accanto a te. Il figlio che ti darò, il figlio che ti do, il figlio che ti devo, il figlio che non ho. Il figlio che ti darò, il figlio che ti do, il figlio che ti devo, il figlio che non può. Ho smarrito l'opinione, eri quel che c'è. Solo un movie da copione, eri solo un bluff. Il figlio che ti devo, il figlio che non ho, il figlio che ti darò.